blog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Sarà una lotta senza confini, perché nei confronti dell'ISIS non ha senso dividere tra minaccia interna ed esterna. La risposta italiana al terrorismo è l'introduzione di diverse nuove fattispecie di reato. Chi viene reclutato e chi va a combattere all'estero ora è un criminale, che verrà perseguito, dice il ministro dell'interno Angelino. Siamo tutti d'accordo che stiamo attraversando un momento particolarmente difficile. L'allerta non è mai troppa e anzi siamo i primi che abbiamo sempre invocato delle misure che tutelino la nostra sicurezza in una circostanza così complicata, così nuova soprattutto da affrontare per noi, quella di un terrorismo di matrice diversa rispetto a quelli che abbiamo conosciuto politicamente connotati alle nostre latitudini. È proprio febbraio che il decreto antiterrorismo sta in qualche maniera creando delle situazioni di maggiore sicurezza, maggiore tutela dei cittadini. Però proprio in questi giorni si sta verificando che nella fase di conversione in legge delle misure contenute in questo decreto antiterrorismo, e mi pare che sia proprio adesso alla Commissione Giustizia e Difesa della Camera, alcune parti di questo testo sono state modificate, naturalmente per la nostra sicurezza, per l'attenzione alla nostra incolumità, però cominciano ad esserci delle misure che ci danno qualche preoccupazione. Qua la voce l'ha fatta sentire il garante italiano della privacy, Antonello Soro, dice sì, attenzione, bisogna vedere se le norme antiterrorismo non allarghino poi le maglie e tolgano ai cittadini quelle sono le banali e basilari garanzie della propria privatezza. Insomma, quello che viene da pensare è che pare che per la prima volta è stata introdotta una possibilità per la polizia di intercettare via remoto i nostri computer, partendo dall'idea che siamo tutti potenziali criminali, quindi chiunque senza altro che una attenzione di tipo poliziesco può trovarsi un particolare prodotto informatico nel proprio computer che apre naturalmente a chi vuole ciò che lui sta facendo in quel momento. Giustificatissimo nel caso di una normale procedura di attenzione verso una probabile attività criminosa, ma ci domandiamo se questo possa essere compatibile con quello che siamo conquistati attraverso anni di avere garantita comunque la nostra privatezza nelle nostre attività personali individuali e ciò che noi informaticamente produciamo ogni giorno, la nostra ombra digitale, è un'estensione reale, concreta della nostra personalità, non è una facoltà accessoria. Vorrei capire un po' più, visto che è molto controversa la materia, oggi alcuni giornali ne parlano insieme ad altri argomenti, bisogna capire esattamente qual è il punto di attenzione, se veramente in un momento di particolare ansia di dare strumenti di tutela della sicurezza dei cittadini, in realtà non passi sotto traccia una maniera, ahimè, non proprio trasparente di mettere gli occhi in maniera indiscriminata su tutti i cittadini. Stefano Quintarelli, buongiorno. Ciao Gianluca, un saluto a tutti gli ascoltatori. Stefano Quintarelli è un imprenditore informatico, è considerato tra i pionieri del digitale in Italia, è autore di un blog, La Svolta Digitale, però come sentite dalle voci in sottofondo è stato anche eletto deputato nel 2013 e penso in questo momento sia proprio in un momento istituzionale, quindi prima che tu sia chiamato a votare, dammi il tuo punto di vista, sia da esperto della materia, sia da parlamentare rispetto al grido di attenzione questa mattina si è elevato, cominciando dal garante della privacy, ma molti che dicono ma allora devo prendermi un Trojan virus che mi arriva direttamente dalla polizia postale, sta così la cosa? Ma allora, diciamo, la cosa per la verità l'ho notata io negli emendamenti che sono stati approvati in commissione lunedì, che c'era una previsione. Sei tu la talpa allora che ha rivelato questa cosa? Boh, talpa era negli atti parlamentari, insomma, non è proprio una talpa. Nessuno se n'è accorto degli altri, perché tu conosci la materia probabilmente. Sì, appunto, poi no, anche qualche altro collega, noi abbiamo un intergruppo tra Camera e Senato, siamo un'ottantina di parlamentari e la cosa l'abbiamo notata diversi colleghi dell'intergruppo perché poi andiamo a guardare i lavori che vengono fatti nelle varie commissioni e lunedì era arrivato questo emendamento che prevedeva la possibilità di installare ad insaputa dell'utente un Trojan sul computer dell'utente per acquisire comunicazioni e dati. Ecco, questa cosa che apparentemente è così neutra, in realtà non è un'intercettazione, perché un'intercettazione prende in esame un flusso. Poi ha un inizio e una fine, il Trojan è sempre lì. Il Trojan è sempre lì, e soprattutto acquisire i dati vuol dire prendere tutto quello che c'è sul computer, quindi nel caso di mia figlia che ha cominciato a usare la posta elettronica a 11 anni, tra 10 anni vorrà dire tutta la sua vita, no? Quindi, perché, e poi non è come una perquisizione in casa, perché noi teniamo solo oggetti o documenti di una certa rilevanza. No, online, nella posta, nei messaggi, scriviamo anche un sacco di fregnacce, un sacco di stupidaggini. Ecco, che tutta questa cosa venga presa, che tutta la vita di una persona venga presa, in determinati casi è ragionevole, è necessario poter avere la facoltà di andare a esaminare, ma non in altri, cioè bisogna stabilire dov'è il limite di questo punto. Cioè, fammi capire, Stefano, se questo diventa legge, per assurdo, in maniera preventiva, e il fatto sia in maniera preventiva è un arco di discrimine molto vasto, potremmo dire tutti i giornalisti d'Italia, ma come tutti i medici o tutti gli elettrauti, sono persone da tenere sotto attenzione, quindi succhiamoli tutto quello che hanno nel loro computer e mettiamolo in archivio, poi non si sa mai, potrebbe accadere questo. No, questo non accade, questo non accadrebbe comunque, perché è previsto per una certa serie di reati che devono avere delle pene previste particolarmente elevate, c'è un giudice che deve decidere la cosa, quindi ci sono tutta una serie di garanzie, però ad esempio c'è la contraffazione tra questi reati, che ha senso per le medicine, voglio dirti, ma non per gli MP3, c'è l'ingiuria che può avere senso in determinati contesti, ma non se un bambino dice all'altro brutto ciccione. Quindi va usato un po' di grano salis, quindi il provvedimento di per sé introduce una nuova fattispecie, quindi non è una perquisizione, perché ripeto, la perquisizione insiste su delle cose limitate per effetto della materialità. Ma poi scusami Stefano, la perquisizione è un verbale, quando ti perquisiscono casa fanno un verbale e dicono le cose che hanno preso. Però il codice di procedura penale prevede anche una perquisizione fatta all'insaputa del bersaglio, cioè un'acquisizione occulta di documenti e dati anche personali, è l'articolo 253 del codice di procedura penale. No, quindi è una forma che include in sé l'ispezione, la perquisizione, l'intercettazione e l'acquisizione occulta di documenti, no? E questa cosa per un insieme di fattispecie di reato comunque rilevanti, ma comunque molto estesi, e quindi bisogna capire questo bilanciamento tra la protezione della riservatezza della persona, perché ripeto, la grande discriminante è che uno, non è un'intercettazione, non è un flusso, ma è tutto lo stock, e due, che è tutta la vita di una persona, nelle cose più banali e insignificanti che nella nostra dimensione materiale non conserviamo. Per questo va fatta una riflessione. Una riflessione che non era possibile fare nei tempi contingentati dell'antiterrorismo, per cui alla fine oggi, dopo per quello che ho parlato di una svista, no? Dopo la discussione fatta in commissione con il vice ministro Gubico e tutte le altre persone insomma coinvolte in questa vicenda, è stato deciso, cosa sulla quale ha dato il suo parere favorevole anche Renzi, mi dicono, di stralciarlo da questo emendamento sul terrorismo, da questo disegno di legge sul terrorismo, visto che in aula adesso sta arrivando anche una legge sulle intercettazioni, e di riportare questa cosa nell'ambito più pertinente e più specifico della legge sulle intercettazioni. Quindi allora Stefano, ci stai dando una notizia che ancora non è uscita sui giornali, nel senso che questo è avvenuto poco fa, quanto tempo fa è avvenuto rispetto a quello che leggevo questa mattina nei giornali? Per la verità dobbiamo votarlo adesso, questo è stato il parere emerso dalla commissione, adesso siamo in aula, l'emendamento soppressivo è il mio emendamento 2.206, adesso stiamo discutendo gli emendamenti all'articolo 1, quindi dovrebbe avvenire nel giro di un'oretta. Quindi nel giro di un'ora il livello di attenzione che è stato sollevato sia dal blog di Stefano Quintarelli da qualche giorno, sia dal garante della privacy che oggi è riportato dai giornali, si stanno rivoteranno nel giro di un'ora alla Camera, per lasciare sospesa questa parte della futura legge che dà qualche perplessità, cioè come ha spiegato Stefano Quintarelli, che venga messo un Trojan virus nel computer di una persona sotto attenzione. Il Trojan virus è proprio come un cavallo di Troia, prende e mette dentro e porta via. Nel computer di una persona, nello smartphone, nella memoria digitale di una persona c'è la sua esistenza digitalizzata, c'è tutto. Quindi Quintarelli giustamente ha sollevato il problema e dice: siccome c'è tutto, non può essere preso tutto indiscriminatamente. Saluto Stefano Quintarelli che tanto deve andare a votare, grazie intanto del chiarimento e della notizia. Giuseppe Vaciago, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. A caldo, Vaciago è parte dello studio Rip Legal, esperto di diritto penale e di nuove tecnologie. Commentiamo insieme quello che ci ha appena detto Quintarelli, cioè che voteranno e questa cosa pare per adesso non attuabile. Era un rischio veramente, era qualcosa da veramente preoccuparci? Beh, nelle modalità con cui era stato messo, sinceramente sì, quindi condivido appunto e apprezzo quanto lo sforzo fatto da Stefano e in generale dal Parlamento per riuscire a recuperare una situazione che era un po' paradossale, perché ben vengano delle misure di prevenzione anche molto invasive nei confronti del terrorismo, però non possiamo inserire una modalità di poter intercettare i cittadini, intercettare e soprattutto entrare dentro il computer, perché stiamo parlando di questo tipo di attività, per tutte le tipologie di reato, perché c'è un po' un controsenso, stiamo parlando di terrorismo e poi dopo però con quella stessa norma posso entrare per eventualmente un'indagine, come diceva Quintarelli, di contraffazione. E aggiungo che per come era stato formulato, adesso posso utilizzare l'imperfetto, sembrava anche che fosse al di là di quel di una determinata categoria di reati, perché bastava ed era sufficiente che fossero reati commessi attraverso lo strumento informatico, che è un modo di dire tutti i reati, perché evidentemente se vado dentro un computer si suppone che ci sia la prova all'interno di un reato commesso attraverso lo strumento del computer. Allora scusami Giuseppe, fermiamoci un istante o dare il traffico. Riprendiamo fra un istante davvero con gli ascoltatori. 800 24 00 24 vi poneva qualche angoscia, qualche problema, quello che è stato poc'anzi detto, che parte in parte però è rientrato nei ranghi, che in maniera abbastanza indiscriminata, perché era molto larga la maglia, si potesse mettere un piccolo virus nel vostro computer e tutto quello che c'è dentro comunque trasbordava direttamente nelle mani degli inquirenti. Voi dite se abbiamo la coscienza a posto non temiamo nulla, è vero, ma lì dentro c'è la nostra vita e la nostra vita ci appartiene. Prima qualcuno ci metta il naso deve farci capire perché ce lo vuol mettere. Melog, cronache meridiane. Sto leggendo molti sms, dico, le persone in realtà sembrano meno superficiali di quello che si pensa quando noi valutiamo il reale pericolo che possa essere compromessa la libertà di mantenere nella propria memoria digitale ciò che fa parte della nostra vita, le nostre relazioni, i nostri rapporti, le nostre private lecite sconcezze che non sono reati, le nostre derive personali, le nostre amicizie, conoscenze, dubbi, i nostri romanzi, le nostre poesie, quello che noi pensiamo, quello che noi diciamo della gente, possiamo metterlo da qualche parte, è roba nostra. Ecco, pare che invece con la giustificazione del decreto antiterrorismo che diventa legge, nelle maglie dell'attenzione, del terrore, della paura e della salvaguardia era passata, stava passando una piccola norma non indifferente che avrebbe permesso comunque di non poter più avere il controllo della nostra vita digitalizzata. Stefano Quintarelli, che è un esperto di informatica da anni, si è accorto insieme ad altri di questa cosa, l'ha fatta presente, la stanno votando adesso alla Camera, la cosa per adesso non è passata, ma ci sarà sempre un Quintarelli che veglia sul nostro privato. Carlo, buongiorno. Buongiorno. Senti una cosa, ho preso il PC proprio per la storia che la pubblicizzavano anche come la rete, la libertà di viaggiare, di navigare, eccetera, eccetera. Allora, io ho capito una cosa sola qui, che qui va bene il PC solo per scaricare il 730 o di fare altre bazzecole. Allora, io voglio vedere quello che mi piace sul PC, va bene? E non posso più a questo punto, perché so che dalla parte di là ci sarà un poliziotto che mi scrive tutto quanto. Ecco, io prendo il PC e lo butto giù dalla finestra. Questo è il discorso, ciao. Bene, può continuare a vivere la sua vita da cavernicolo post-digitale, non c'è nessun problema. Ahimè, ormai è indissolubile la nostra esistenza, la nostra relazione, la nostra professione, essere collegati in rete. Dobbiamo continuare a starci il più possibile, ma conquistarci con il macete tra i denti il diritto alla libertà della nostra vita privata. Nora Gheri, buongiorno. Sì, buongiorno Gianluca, innanzitutto complimenti perché lei è di una bravura eccezionale, fuori dal coro. Sì. Senta, le volevo dire, è certo, può essere una privazione della nostra libertà personale. Beh, il coro, chi c'è dentro il coro? No, solo per capire, no, una domanda. No. Dico fuori dal coro, ma chi c'è nel coro? Io non lo so. Ah, nel coro parecchi giornalisti, parecchi occulte, sì. Insomma la vedo veramente una persona speciale, va bene, speciale, non li vuole complimenti, sì. Ma io le faccio lo stesso, non mi interessa. Senta. Ma si sente di concupirmi personalmente, no? No, e allora che mi importa, mi scusi, ma io guardi che veramente preferirei essere notato per strada. Comunque, avanti. Ma io se la incontro volentieri, io però a Firenze sarà difficile. Sì. Ascolti, le volevo dire semplicemente, per me ha male estremi rimedi, quindi... Quindi va benissimo, ci controllino. Chi non ha da temere non teme niente. Sì, no, però questa è la scemenza della mattina, mi scusi. Che niente, nessuno ha da temere. Lei se vuole mettere nel suo PC la storia delle sue unghie incarnite, non è un reato, ma non le va che un domani qualcuno ci metta il naso sopra. Ho parlato una metafora delle più innocenti. Certo. Noi dobbiamo difendere invece il nostro diritto a averci una vita privata in cui la gente non metta il naso. Questo va difeso. No, dice tanto io non c'ho niente da nascondere. Io voglio avere il diritto di averci cose da nascondere, se non sì. Più reati. Sono d'accordo, ma siccome non siamo abbastanza, il nostro paese almeno non è talmente evoluto da poter discernere, scelgo il male minore, perché in realtà preferisco che il terrorismo non ci sia, quindi se controllano tutti lo preferisco al fatto di non controllare nessuno. Questo per è un punto di vista, è un punto di vista. Alessandro. Sì, sono Alessandro, io sono un informatico forense, quindi la questione mi è abbastanza a cuore. Di certo riconosco che si dovrebbe agire secondo pertinenza e non eccedenza, un po' quelli sono i principi base della privacy, però riconosco anche in questo momento il legislatore mi sembra che non sappia la mano destra quello che fa la mano sinistra, perché nello stesso periodo c'è in approvazione la depenalizzazione dei reati informatici, cioè si depenalizzano i reati informatici, poi si vanno a mettere i malware all'interno dei computer dei cittadini. Cioè, allora non è quello lo scopo, dice lei, perché mi guardate, mi fate il logo di WhatsApp se in realtà il reato informatico non è più reato? Che reato faccio? Giuseppe Vaciago, le ultime due telefonate comunque sollevano dei punti di vista interessanti secondo me. Molto, molto. E devo dire che la mia posizione in realtà è mediana, cioè non ha tutti i torti l'ascoltatrice di Firenze, nella misura in cui io dico che siamo arrivati a un punto in cui dobbiamo avere degli strumenti efficaci per il contrasto alla criminalità e in particolar modo al terrorismo. I limiti devono essere molto chiari e, come ha detto l'ascoltatore successivo, Alessandro, io credo che bisogna anche avere proprio una competenza tecnica. Ci sono le modalità per poter discernere, innanzitutto i reati, perché bisogna capire su quali reati io vado a fare quel tipo di attività, e in secondo luogo una precisa autorizzazione da parte della magistratura su un'indagine veramente seria e concreta. Quindi Sono magistrato autorizza, perché evidentemente ha degli elementi, perché si faccia indagini su di te, allora, a quel punto anche le tue mutande contro luce diventano oggetto di attenzione e devi stare zitto. Bravissimo. Ma è il gettare la rete, la pesca a strascico preventiva che mi mette un po' in agitazione a me. Ma in Germania ci sono arrivati nel 2010, c'è una sentenza della Corte Costituzionale, ci avevano già provato in Germania nel 2010, la Corte Costituzionale dice una cosa bellissima, dice è incostituzionale questa legge che ti permette di entrare dentro il computer, però fatene una che sappia scegliere come combattere la criminalità, perché è importante, e contemporaneamente non andare a prendere le unghie incarnite della signora che giustamente abbiamo preso come esempio di scuola, ma e che è un esempio minimo. Quindi la privacy va rispettata, ma anche la sicurezza. C'è la possibilità di fare questo bilanciamento, come ho detto, dividendo bene i reati e le modalità. Si stava rischiando, però non ce l'abbiamo fatto. Un'ultima cosa, Gianluca, questa legge però non è che si limita a questo aspetto. Questa legge permette anche di poter bloccare i contenuti in rete dei social network e anche di altri contenuti in rete in via preventiva. Attenzione che questa forma invece di cosiddetto network blocking è un altro aspetto da considerare in modo serio, perché una valutazione preventiva di un contenuto terroristico da un lato può essere un contenuto serio da bloccare, dall'altro lato magari la polizia, ma in buona fede, può anche bloccare un contenuto che invece non è di natura terroristica, e per motivi tecnici c'è anche il rischio che per bloccare quel contenuto si blocchi l'intero sito o l'intero social network. Quindi ci sono degli altri, chiamiamoli piccoli dettagli tecnici giuridici, che sono di una certa gravità, e quindi anche sotto questo aspetto un po' di attenzione. E noi ci torneremo, grazie Giuseppe Vaciago, grazie Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini, ci sentiamo domani.